Web Radio Luzzi presenta un servizio per inculare il cittadino, il ring della politica calabrese. Capate! Buonasera a tutti cari amici e benvenuti a Capate, il servizio per inculare il cittadino. Oggi ad affrontarsi altre due donne, purtroppo. Per il PD, alla mia sinistra, una che ha trovato la strada spianata, ovvero l'onorevole Stefania Covello. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, e soprattutto all'infrastruttura. Non iniziamo. Ah, che stai fumando, mi tranquillo. Per il PDL, alla mia destra, Iole Sandelli. Buonasera a tutti, tranne che a Sacapugella votava c'è un bastettato di Stefania Covello. A chi l'ha detto un bastettato a Guattini? A te, signore, calma, calma, siamo qui per discutere di politica e sviluppo. E secondo te, chi sa cosa Sacapugella ha avuto sviluppo? E non parli di scopa, ma più piacere, signora. Ma questa è mia, e gli apri un biscamento con cioccolato. Innanzitutto volevo dire che io sono volgare, non sono volgare, con sta zoccola e merda. Hai detto zoccola, e a me hanno, e a me mi hanno imparato l'educazione, i zoccola. Io non so se permettete a far parlare a pende panne. E beh, ti piacesse a te aiuto successo che digno io, oi ciotta! Non solo politicamente parlando, dammi una cosa! Ci tieni i papici là dentro, anzi forse manco lo sa come si fa, Signora Santelli, la chiamo così perché sono educato, oi zoccola bastarda fricata. No, sono la mia, lei ha invidia perché la provincia di Cosenza ha preso gli Oscar per il lavoro svolto. Ti faccio l'infrastruttura e scaffo in bacio ti faccio. Ah, su. Mamma che invidia, tutti stati caviti, i frani che sono in giro. Eh sì. Oscar di plastica non è stato dove tinghi tinghi. E ma fate fare una superazione. E buone, buone. Buone, buone. Frenate la ciuccia. Ma parliamo dei problemi veri delle persone, di quelle persone che non arrivano alla fine del mese, sono bloccate. E quindi, che cazzo dici? Sono problemi. Ma che sta parlando? Quello io prima della fine del mese sono bloccata. Purtroppo sono padre eterno e non ha mandato sempre le mestruazioni. Che mi devo fare niente. Scusi, ma posso permettere? Tu puoi permettere, logico, sta facendo tutta la gatina. Ma io mangono romani, ma tu fa, ah, ma tu fai come, tu fai come chi la collega, tu fai come chi la collega, tu che varie ti posti con il microfono a cantare. Ah, non dice che la collega mia, o fa come che la collega tua. Comunque, signor arbitro, mi scusi, ci manca molto. Deve andare in incontro con delle persone che hanno davvero problemi. Dovrei raccomandare, dovrei indicare delle soluzioni lavorative. Infatti, signore, e poi vorremmo sapere il compenso per questo ospedale. Io avrei 3.000 euro o mi piglio, Cosa? Ah, piglio! Ma potete scordare, siete personaggi pubblici. Ah, sì! E poi vedi come uno personaggio pubblico si dona a questo. Dov'è? Facciamo una violenza trasversale. Concordo. Cosa? Bastardi, basta! Arrivederci alla prossima puntata, se ci arriviamo, aiuto! Che? E tu c'è il tuo dio, non puoi.